Salutoni a tutte e tutti, passaggio a Nord-Ovest con una corposa intervista agli occupanti, alle occupanti di Viale Corsica, è proprio per questo divisa in due parti, la prima parte oggi con le repre per tutta la settimana, la seconda parte la prossima settimana. Passaggio a Nord-Ovest con un cambiamento di orario, un anticipo di mezz'ora e quindi la diretta è lunedì alle 13. E con un cambiamento più sostanzioso, cambiamento orario più sostanzioso per quanto riguarda le repliche, che appunto sono il martedì alle 15.30, il mercoledì alle 18 e il venerdì alle 15.30, quindi non tutti i giorni dal martedì al venerdì alle 13.30, ma appunto con questi nuovi orari. Un cambiamento in palinsesto riguarda anche le trasmissioni del lunedì, le trasmissioni successive, le due trasmissioni successive a Passaggio a Nord-Ovest, e cioè Senza Frontiere e Stampa Rassegnata, e quindi Senza Frontiere alle 14 e Stampa Rassegnata alle 15. Più in generale la modifica di palinsesto ha riguardato la modifica degli orari delle repliche per quanto riguarda i programmi informativi, le trasmissioni informative, e comunque per tutti gli orari, per tutti i palinsesto di Radio Wombat, potete appunto andare alla pagina palinsesto su wombat.noblogs.org, che è appunto il sito della radio in cui ci sono le informazioni sul palinsesto, programmazione, trasmissione e via dicendo. Ricordiamo anche da lì potete ascoltare in streaming, anzi state ascoltando in streaming la radio, che potete ascoltare anche sull'1359 in AM. E partiamo appunto con l'intervista agli occupanti di Viale Corsia. Siamo in Corsia 81, uno stabile occupato che ultimamente è gravato, diciamo, da un acquisto tramite asta, e quindi chiediamo subito com'è la situazione a questo punto di vista. La situazione al momento è che appunto lo stabile, che era l'ex Lavazza, appunto in Viale Corsi al Civico 81, è stato venduto tramite un procedimento del tribunale di cosiddetta carterizzazione, che è appunto un procedimento che è stato fatto per favorire la vendita dello stabile, che da diversi anni era all'asta ma non trovava acquirenti. E al momento l'acquirente è un immobiliare controllato dal gruppo Intesa San Paolo, che in questa, che oltre ad aver comprato lo stabile appunto da noi occupato al Civico 81, diciamo come pacchetto unico per favorire un ulteriore acquisto, sono stati comprati anche altri due palazzi qua vicini nella stessa via, sempre appunto dalla stessa immobiliare. E quindi in totale quanti appartamenti sono? Ecco, per dare un'idea, non è soltanto lo stabile, e quindi ecco, un'operazione immobiliare si preannuncia abbastanza grossina, ecco. Sì, in tutta la via sono altri, in questo lotto sono compresi altri tre numeri civici più o meno, e chiaramente non sappiamo se sono abitati o meno. Abbiamo saputo più o meno che il costo complessivo è molto molto basso, chiaramente, quindi si parla di una speculazione immobiliare bella grossa. Diciamo, possiamo fare anche un resoconto abbastanza generale anche su quella che è la situazione a questo punto di Rifredi, in quanto comunque non solo è messa a rischio la nostra casa e l'occupazione stessa, ma da un po' di tempo a questa parte abbiamo saputo anche della futura costruzione del parcheggio scambiatore della tranvia nell'area cane autogestita di Viale Corse. Infatti si trova poco distante dall'occupazione stessa. Quindi un'operazione che va nella direzione di ridisegnare un po' il quartiere, la zona. Ma prima di parlare di questo, vi volevo chiedere un po' la storia dell'occupazione. Cosa si vorrebbe sgomberare? Allora, l'occupazione di Viale Corsi 81 nasce nel novembre 2012 da un gruppo di ragazzi e inizialmente anche di famiglie che avevano avuto un precedente sfratto. Era uno stabile che era stato fino a, credo agli anni 80, era una torrefazione alla Lavazza che poi in seguito è stata acquisita. Lo stabile è stato acquistato dal gruppo Margheri, gruppo edile che ha costruito il Residence Almazia, che si trova giusto in prossimità dell'occupazione di Viale Corsi 81, e sono questi stabili di appartamenti che alcuni sono quelli che sono stati venduti insieme a noi, corrispondono alla stessa vendita. Questo gruppo edile, il gruppo Margheri, ha fatto, diciamo, un pastrocchio di qualche natura. Ha fatto un pastrocchio finanziario e c'è stata un'indagine, quindi non hanno mai terminato i lavori nello stabile di Viale Corsi 81, che sarebbe dovuto diventare un asilo, una sorta di compensazione, di accordo fra amministrazione e costruttori. Questo non è mai successo e quindi da fine anni 90 e primi anni 2000 lo stabile è rimasto vuoto fino all'occupazione del 2012. L'occupazione del 2012 in cui appunto è nata questa esperienza di progetto sia abitativo che sociale. Quindi casa è una comune, in quel momento ci viviamo circa una ventina di ragazzi e ragazze, e è uno spazio sociale che appunto ospita una biblioteca, un bar, una piccolissima sala concerti, una cella officina e diciamo comunque uno spazio funzionale dove si sono fatte, insomma, negli anni anche numerose iniziative di presentazione libri, dibattiti. Questa appunto è l'esperienza un po' di Viale Corsi 81, che appunto, buono, mi sono bloccato. Quindi un'esperienza non soltanto abitativa, ma anche rivolta al sociale e a una migliore qualità della vita. Prima parlavate dell'area cani, ma anche delle iniziative per la salvaguardia del verde in Viale Corsia. Ecco. Quindi come sono nate, come si sono evolute queste due iniziative, questi due percorsi che sono un po' caratterizzanti, ecco, dell'esperienza in Viale Corsia? Chiaramente, come diceva Ale, questo posto vive attraverso anche uno spazio sociale, cerca comunque di interagire con gli abitanti del territorio, quindi cerca di creare dei legami, delle relazioni per portare avanti un modo di vivere diverso, cercando comunque di contrastare anche quelle che sono le politiche autoritarie di questo stato di cose. E nulla, quindi con queste interazioni, anche con queste relazioni abbiamo avuto con il quartiere, con 2 anni fa, ormai un anno e mezzo fa, nell'estate del 2017, abbiamo saputo dell'abbattimento che poi è stato eseguito degli ippocastani della via. E in quel caso abbiamo messo in moto, diciamo, tutte quelle relazioni cercando di contrastare questo atto. Da lì è nato infatti il Comitato Abitanti Viale Corsica, che oggi ancora, diciamo, vive attraverso comunque tante iniziative anche fatte nell'area cane autogestita. Sono vicini e amici anche, quindi ci troviamo molto spesso anche in situazioni quotidiane a parlare di quello che succede intorno a noi. Si può dire, cioè, che a livello di attività dello spazio si è sempre fatto molte iniziative, volendo anche un po' di nicchia comunque per il pubblico dei compagni e diciamo, gli addetti ai lavori, però appunto in particolare la questione del verde pubblico e degli spazi abitabili del quartiere in questi anni abbiamo visto è stata il maggior punto di contatto, il maggior punto di legame col territorio, proprio perché l'area Cani, che era uno spazio sostanzialmente abbandonato, un pezzettino di terra completamente degradato, che abbiamo appunto ripulito, aperto e attrezzato ad area Cani, e questa questione delle alberature, dell'abbattimento degli alberi, che era sostanzialmente una manovra messa in atto dal comune in un modo molto, diciamo, di soppiatto, è stato fatto d'estate in un modo molto autoritario, infatti, cioè che non ha rispecchiato la volontà degli abitanti e soprattutto non ha avuto interesse a sapere qual era la volontà rispetto al verde pubblico sostanzialmente. Diciamo, questo è sempre stato col territorio, con gli abitanti della zona e della via, il maggior punto di contatto. Per noi, diciamo, è stata anche un po' la dimostrazione che quello che si riesce a costruire insieme a livello di rete e di opposizione in una città come Firenze oggi dipende anche tanto dalla questione degli spazi urbani e possiamo dire insomma della vivibilità della nostra città e di diciamo, questo rapporto conflittuale con un'amministrazione che diciamo, fa di tutto per permettere la trasformazione e la rimodernizzazione in senso quello che poi si andrà a vedere, si tratta di vendite ai soliti gruppi immobiliari e a progetti speculativi che di fatto sono solo funzionali a quello che è il turismo in centro. Quindi l'area Cani c'è ancora ed è interessata purtroppo da anche in questo, anche l'area Cani, da un progetto, se non di speculazione edilizia, però di ridisegnazione degli spazi urbani in un contesto che non prevede un utilizzo da parte degli abitanti. Esatto, sì, perché il progetto, brevemente lo spieghiamo, il progetto sull'area Cani si tratta sostanzialmente, l'area Cani è situata in un parcheggio, che è il parcheggio in fondo a Viale Corsica, contingente alla ferrovia. Il progetto presentato dal comune sostanzialmente è la riqualificazione completa di tutto questo parcheggio, compresa l'area Cani, per rifare un altro parcheggio, questa volta a pagamento, che si chiamerà parcheggio scambiatore, perché appunto è il posto in cui se te devi raggiungere il centro storico, vai a lasciare la macchina per poter prendere la tranvia, quindi è un luogo appunto estremamente funzionale ai flussi turistici diretti verso il centro e anche appunto dei lavoratori per il centro. Comunque è una roba completamente funzionale al centro, andando di fatto a intaccare quella che è uno spazio sia di aggregazione ma anche di verde urbano vivibile, l'unico di questa zona. Chiaramente questa opera viene definita riqualificazione, soprattutto un'opera di compensazione che diciamo, dovrebbe in qualche modo favorire l'abitabilità del quartiere. Chiaramente abbiamo notato negli ultimi anni, anzi nell'ultimo periodo, perché da poco è attiva il prolungamento della linea tranviaria, che da lì si è un po' scatenato, no? In qualche modo questo ampliato questo processo di turistificazione. Infatti in questo momento Rifredi effettivamente è sotto un attacco bello forte a partire da quella che sarà la costruzione del nuovo parcheggio scambiatore a tante piccole opere di vendita del patrimonio collettivo. Ad esempio, molto probabilmente verrà costruita, è già stata messa in progetto la costruzione di un ulteriore centro commerciale, quale quello dell'S Lunga, targata S Lunga. Nell'area dell'ex panificio militare e tante altre opere che volgono molto sia alla urbanizzazione, quindi al trasporto pubblico che anche opere di, insomma, puramente commerciali. E invece, ecco, volevo risolvere un attimo al discorso dell'opposizione al taglio degli alberi di Viale Corsia, perché, ecco, mi è sembrato che ci fosse un approccio all'iniziativa un po' diverso rispetto a quello classico dei comitati e via dicendo, e prevedeva la raccolta di firme e comunque un'opposizione, diciamo, come dire, verbale. Ecco, in questo caso invece c'è stato anche uno scendere in strada e opporsi fisicamente, diciamo, alla manovra repressiva. Ecco. Sì, è stata anche una scelta di contingenza dovuta al fatto che quando si è scoperto che avrebbero abbattuto gli alberi, si era veramente nell'imminenza dell'abbattimento, cioè noi l'abbiamo scoperto che l'avrebbero dovuto iniziare ad abbattere dopo alcuni giorni, non ricordo, ma meno di una settimana sicuramente. Quindi, vista anche la contingenza, diciamo, e visto anche che era una manovra completamente calata dall'alto, antipopolare, e che, ci teniamo anche a precisarlo, di fatto hanno tagliato tutti gli alberi, piante sane e piante non sane, quindi, diciamo, è stata anche la contingenza di dire: ok, siamo in ritardo, siamo tutti d'accordo perché le piante sane solo il comune le vuole tagliare, nessun abitante gli passerebbe per la testa, perché comunque anche a livello di qualità della vita è sensibilmente diverso un'alberatura consistente come c'era prima in questo viale, e quindi, vista anche la contingenza e con la convinzione che senza un'opposizione diretta e pratica le idee da sole spesso non bastano, perché comunque ormai si vede come i poteri che governano la città, l'amministrazione non conosce opposizioni, non ignora completamente qualunque dissenso popolare, e quindi sin dal primo giorno in cui avrebbero dovuto abbattere gli alberi si è deciso, insieme agli abitanti con cui si è riusciti a entrare in contatto, di fermare gli abbattimenti, facendolo in presidio, presidiando le singole piante e rimandando quindi dal primo giorno le abbattiture, continuando tutti i giorni questa forma di presidio, che in realtà, più che su un piano, diciamo, fra virgolette, militare del presidio di difesa degli alberi, si è svolta come forma di iniziativa pubblica e divulgazione, diciamo. Ci ha permesso anche di stare in strada tutte le mattine facendo queste, se le chiamavamo, colazioni condivise, sostanzialmente voleva dire stare in strada la mattina, incontrare un sacco di persone che erano interessate alla questione o che semplicemente passavano di lì, e nel frattempo essere in qualche decina di persone per strada, vigili, a fermare gli abbattimenti, a comunque impedire che avvenissero queste operazioni. Tutta questa vicenda, diciamo, è terminata dopo circa 2 settimane, appunto, di praticamente costante presidio e costante mobilitazione. È stato anche un periodo molto interessante a livello di mobilitazione e di incontro con i residenti, gli abitanti, è terminata alla fine, come spesso accade, grazie all'uso della forza pubblica. Infatti, con l'intervento della Celere sono riusciti ad effettuare gli abbattimenti il giorno dopo Ferragosto, appunto il 16 agosto del 2017, e come da copione, giusto un mese fa, 2 mesi fa, sono arrivate anche le denunce relative a quell'episodio, in cui, come spesso accade, hanno denunciato esclusivamente quelli che secondo loro sono i militanti politici, hanno completamente decontestualizzato tutta la questione politica e di anche messa in discussione di quella che è la decisione amministrativa e il concetto di partecipazione dal basso, completamente snaturata, e sono arrivate denunce su questioni completamente tecniche rispetto a quella che sostanzialmente è stato un uso della forza pubblica volto a permettere l'abbattimento degli alberi. Quindi è stata una giornata di spintonamenti, carichette, e insomma la Celere ha permesso questa cosa, e di conseguenza la Digos ha fatto arrivare qualche denuncia a chi voleva denunciare. Ci sentiamo un pezzo musicale, sono la Tarassia Group, Oltre Torrente. abbracciati ad un sogno che ha una scritta sul volto. Da qui non si passerà. L'orgoglio diventa un'arma negli occhi dei bottegai. Si leva l'urlo di Parma. Non ci avrete mai. L'oltre torrente non si arrende. Stringe i pugni e spara. E sanguinando spera. Eccoci qua, continuiamo l'intervista e ecco, gli chiediamo un po' questa vendita, quindi è all'interno di un processo di ristrutturazione di tutta la zona, una ristrutturazione che vede sostanzialmente l'utilizzo del quartiere in funzione anche e soprattutto del centro storico. Sì, sostanzialmente c'è un processo appunto di trasformazione di questa zona del quartiere in un polo funzionale al centro e ai suoi flussi economici e turistici. In che modo? Innanzitutto tramite la tranvia, che appunto viene dato, visto anche come funziona la mobilità a Firenze, viene diciamo... sia la linea da questo lato, quindi dal lato di Rifredi, che dal lato Isolotto vengono privilegiate per far arrivare appunto i turisti e tutto ciò che deve andare in centro laggiù, e dall'altra parte appunto anche grazie alla tranvia sono state fatte numerose opere di riqualificazione delle piazze. È stata ridisegnata anche un po' l'urbanistica e l'arredo pubblico della zona. Inoltre a questo Rifredi, vuoi anche per la tranvia, funziona da dormitorio per alcuni turisti, perché ormai non solo in centro ma anche in questa zona si sta popolando, in questa zona come anche Sa Jacopino per esempio, che è comunque altrettanto a ridosso del centro se non più vicino, si sta popolando questa zona di piccoli bed and breakfast e piccole attività che contribuiscono, e su Firenze io credo che questo aspetto abbia un impatto veramente alto, all'innalzamento del prezzo delle abitazioni, degli affitti e del valore di vendita del mattone. Quindi, come spesso si è visto in queste occasioni, questo contribuirà sicuramente a spopolare il quartiere in funzione appunto in funzione di quello che poi è il profitto legato a tutta l'industria turistica fiorentina. Quindi questa ristrutturazione provoca un doppio danno agli abitanti del quartiere. Un primo danno è legato al fatto che le nuove funzioni saranno previste, non sono assolutamente atte a garantire un minimo di qualità della vita degli abitanti, e nello stesso momento faranno in modo di aumentare i prezzi in senso generale. Sì, questo indubbiamente, perché riguardo all'aumento dei prezzi abbiamo visto prima che è una dinamica particolarmente contingente il turismo, e che appunto già sta cominciando a coinvolgere tutte le aree più limitrofe al centro, perché probabilmente non ci stanno più nel centro, cioè comunque a livello di industria turistica a Firenze continua l'espansione e quindi continuano gli investimenti. Ovviamente anche sull'altro piano, la qualità della vita, c'è un evidente disinteresse rispetto alle esigenze degli abitanti, anche perché anche solo l'area Cani è uno dei pochi luoghi di aggregazione e di incontro del quartiere, o comunque spazi pubblici a funzionalità per abitanti. Voler ignorare questa esigenza e anzi non farsi minimamente problemi ad abbattere e distruggere completamente un'area del genere, tra l'altro io ci tengo anche a precisarlo, l'area Cani verrà sostituita da un totale di 20 posti auto in un parcheggio in cui ce n'è già 180, quindi 20 posti fa anche una relativa differenza. È un palese ignorare le esigenze di qualità della vita, ma anche solo rispetto sempre a quest'area, in tutto sembra una piccolezza, poi sono quelle cose che io penso nel quotidiano pesino a tutti. Qua i parcheggi sono, in teoria sono a pagamento, sono per i residenti, di fatto in questa zona è di parcheggi, da una parte ce n'è poi, dall'altra in realtà c'è un grosso parcheggio e il posto si trova, i parcheggi sono gratuiti, i vigili non vengono mai. Un domani, siccome il parcheggio sarà a pagamento e tutta l'area sarà riqualificata e completamente alterata a livello urbanistico, ci si immagina anche una stretta maggiore in questo senso, il che vuol dire più costi per tutti comunque, cioè la qualità della vita passa anche da quanto ti costa vivere in un quartiere della tua città, ovviamente. Quindi ecco, a me mi sembra che tramite queste iniziative non ci sia stato solo una lotta per riqualificare il quartiere in sé, ma si sia innescato un meccanismo in cui gli abitanti decidono e riescono a capire meglio dell'amministrazione comunale, o comunque di chi decide le sorti di un quartiere guardando una piantina della città, decidono quelle che sono i servizi tra virgolette migliori per il quartiere stesso, per la zona stessa. Diciamo sì, anche l'esperienza del comitato nato in seguito, come dicevamo prima, alla questione dell'abbattimento degli alberi, per quanto esperienza piccola, circoscritta in questo senso, per noi è un percorso interessante, perché si tratta anche proprio di confrontarsi fra persone di età diverse, con esperienze personali diverse, su quella che è la gestione della città, e quindi qual è il rapporto fra le nostre esigenze, le esigenze del quartiere e appunto il territorio che ci circonda. E per noi questo è un'esperienza davvero interessante, perché vuol dire anche andare a capire, cioè in seguito a che uno capisce cosa vuole fare, cioè cosa vorrebbe, come modificare lo spazio intorno a sé, quali sono i bisogni quotidiani e qual è il nostro ambiente vivibile migliore. Per noi ha voluto dire anche momenti di confronto molto aperti, anche creativi e di sperimentazione. Infatti, in realtà, anche sulla questione dell'area Cani, noi oltre che cercare di sensibilizzare su come mai è sbagliata la vendita di questo spazio, stiamo tirando su un, diciamo, un progetto, tanti piccoli progetti anzi, di autocostruzione e trasformazione del territorio, che dal nostro punto di vista è una cosa interessantissima, perché vuol dire esportare l'autogestione nella quotidianità del quartiere, ovvero come può avvenire in uno spazio sociale che uno lo gestisce come meglio crede ad uso comune. Si sta cercando di fare lo stesso con questa porzione di territorio che fino ad oggi ha vissuto in un semiabbandono. Ora l'amministrazione se ne ricorda perché c'ha dei progetti specifici che probabilmente gli portano dei soldi. Per il resto, questa situazione d'abbandono ci ha sempre permesso di fare anche un po' quello che ci pare in questa zona. L'area Cani è uno di questi casi, perché insomma, meno male era un posto recintato, chiuso, e si è aperto tranquillamente, nessuno ha detto più. Sì, poi effettivamente nell'atto pratico, infatti, siamo riusciti in qualche modo anche a mettere in luce tante contraddizioni, perché siamo riusciti anche organizzandoci con gli abitanti del quartiere attraverso tante iniziative anche molto pratiche, mettendo magari organizzando cene ed eventi specifici, quello che noi possiamo fare in questa porzione di Rifredi. Effettivamente si vede che il coinvolgimento, l'autogestione, promuovere questi processi portano a creare davvero una dinamica in cui il quartiere diventa tuo, è tuo, e puoi riuscire a costruire qualcosa di reale. Per questo, infatti, dopo tante iniziative, abbiamo deciso anche di organizzare un evento il 23 febbraio, sabato 23 febbraio, con il comitato, che partirà dalla mattina alle 10, facendo un laboratorio creativo, diciamo, facendo delle piccole modifiche strutturali, che possono essere dall'installazione di una bacheca a costruire dei piccoli cartelli "immagina il tuo quartiere", quindi ridando un nome, un significato a alcuni posti nella via, con chi effettivamente abita la zona. Finisce qui questa prima parte di questa intervista riguardante l'occupazione Viale Corsia e in generale la zona, il quartiere circostante. Ricordiamo appunto che sono state variazioni di orario rispetto alle dirette di passaggio a nord-ovest e anche rispetto alle repliche: diretta il lunedì alle 13, replica il martedì alle 15.30, mercoledì alle 18, il venerdì alle 15.30. In generale, per quanto riguarda il palinsesto della radio, potete andare direttamente sul sito wombat.noblogs.org. Sul sito appunto trovate anche la pagina podcast, da cui potete ascoltare e scaricare i podcast dei passaggi a nord-ovest e di tutte le trasmissioni Radio Wombat. Ciao, alla prossima.